aspetta. Prendiamo il sentiero, dai dai, ovvero quella di fretta. Ora tu prendimi e non ancora di sì. Abbracciami e stendimi guardandomi negli occhi, please. Sono pronto ad aprirmi tu che...